1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:20 minuti in punto, pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori, e oggi vi ricordo che parleremo di questo dibattito, allora amnistia, indulto, un qualcosa che so già gli italiani non vogliono assolutamente. Le statistiche di qualche anno fa quando si dibatté dell'indulto, vi ricordate, erano tipo il 95% degli italiani non capiva quel provvedimento. Ora ci risiamo a discuterne, amnistia, forse indulto, con i riflessi anche le polemiche serve a Berlusconi da parte di chi critica questo provvedimento e invece i berlusconiani che dicono non c'entra nulla. Ecco, magari se riusciremo a non riferire tutto a una sola persona ma a parlare di un tema, magari sarà anche una buona cosa. Questo dalle 8:15 con noi avremo l'ex ministro alla giustizia Nitto Palma del Popolo della Libertà, la deputata del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti. Avremo con noi anche oggi Nicola Gratteri, procuratore che è stato con noi ieri e sul quale su questo tema non abbiamo fatto in tempo ad approfondire, dunque l'abbiamo richiamato. Allora, intanto andiamo a vedere che cosa ci propongono i quotidiani che trovate in edicola. È giovedì 10 ottobre, i titoli: c'è chi sceglie la manovra, o meglio la manovrina da 1,6 miliardi, il Sole 24 Ore, manovra con tagli e immobili, questo è il titolo di prima pagina, mentre per la stampa tagli e vendite di immobili, così rientreremo dal deficit, questo è il titolo di apertura anche del quotidiano nazionale, lo Stato taglia e vende. Poi la clandestinità non sarà reato, Corriere della Sera, e quindi il tema Lampedusa e la prima scelta del Senato. La Repubblica, via il reato di clandestinità, il Messaggero, clandestinità, stop al reato. Mentre il Giornale torna sulla manovrina, niente tasse, vince il PDL. Libero invece, far ripartire il paese, come aggiungere 300 euro alle nostre buste paga, più sgravi sui buoni pasto, ticket trasporto deducibili, pacchi spesa per i dipendenti, tre mosse esentasse che costano 3 miliardi ma ne muovono 34, è una proposta di Libero. Mentre l'Unità, primi colpi alle leggi vergogna, il Fatto Quotidiano, ci raccontano balle con l'indulto, Berlusconi è libero, il Secolo, via il reato di clandestinità, mentre Avvenire, Lampedusa, Europa, questo è il titolo. Il Manifesto mette la foto di Letta e Barroso, ieri a Lampedusa, naufragio è il titolo che commenta questa foto. Voglio partire però, cari italiani, da quello che il ministro del lavoro Giovannini ha detto ieri e che ha suscitato polemiche, commentando i dati dell'OCSE che certificano, come abbiamo detto sempre ieri, che gli italiani sono ultimi, gli adulti sono ultimi per apprendimento nella lingua e sono penultimi per l'apprendimento della matematica, dati OCSE. Il ministro Giovannini è in corso in una di quelle battute o commenti che ha suscitato un vespaio di polemiche. Dopo il poco ciusi di Fornero, dopo i bamboccioni di Padoa-Schioppa, eccolo qui, inoccupabili. Così il ministro del lavoro liquida i giovani, questo almeno è il titolo di Libero. Ovviamente la dichiarazione è più sfumata, più complessa, era un convegno per commemorare Biagi, insomma per parlare della legge Biagi. Un paese che esce con le ossa rotte dall'indagine dell'OCSE mostra che cosa? Mostra come gli italiani siano poco occupabili, perché molti di loro non hanno le conoscenze minime per vivere nel mondo in cui viviamo e non costituiscono capitale umano su cui investire per il futuro. Il dato di fatto è che, leggendo quei dati, è una conclusione abbastanza ovvia da parte del ministro Giovannini, ma apriti cielo, i sindacati si arrabbiano, Giovannini fa arrabbiare la CGIL, scrive per esempio Avvenire, oppure Libero, appunto, il ministro liquida i giovani, inoccupabili, i nostri ragazzi non hanno le conoscenze per inserirsi nel mercato. Poi a sera Giovannini ha detto: non ho detto proprio così, e via, è partita la dichiarazione a sua insaputa. Gli italiani poco occupabili di Giovannini, anche per l'Unità. Tutto questo finisce in prima pagina nel commento di Massimo Gramellini, per esempio. Dunque siamo sulla stampa, scrive Gramellini sotto il titolo Gli inoccupabili. E dopo bamboccioni, ciusi, sfigati, ieri è toccato al nuovo ministro di un'attività in via d'estinzione, il lavoro. Definire poco occupabili gli italiani, poiché a nessuno risulta che negli ultimi 20 anni in Italia ci sia stata un'epidemia di cretinismo nei reparti di ostetricia, si deve supporre che l'impreparazione dei ragazzi non derivi da tare mentali o caratteriali, nemmeno soltanto dal lassismo complice dei genitori, ma da scelte strategiche incompatibili con la parola futuro. Quella classe dirigente uscita dall'assemblea del 68 che oggi ride e disprezza i figli è la stessa che ha tolto risorse all'istruzione, a ricerca, formazione, che si è rifiutata di indirizzare le scelte di politica economica verso cultura, turismo, innovazione tecnologica, che ha ammazzato il merito praticando l'appartenenza a qualche cordata in prima persona. Per quale ragione i ragazzi dovrebbero credere in un sistema che non privilegia i più bravi ma i più ammanicati? Gli investitori stranieri si tengono alla larga dell'Italia non perché considerano i nostri figli dei caproni, ma perché si rifiutano di allungare una bustarella ai loro padri o in alternativa di aspettare 3 anni per avere un bollo che altrove ottengono in 3 ore. Altro che poco occupabili. Il problema italiano è che in questi anni qualcuno si è occupato e ha occupato fin troppo. E così anche Vittorio Feltri in prima pagina del giornale titola: quel caro ministro burocrate inoccupabile sarà lei. Parla Vittorio Feltri, il ministro del lavoro, politiche sociali Giovannini, preso atto dei dati OCSE sui livelli di istruzione, constatato che l'Italia è in fondo alla classifica, e ha affermato sconsolato che tutto ciò dimostra quanto i nostri concittadini siano poco occupabili. Poi l'analisi di Vittorio Feltri va avanti, scrive: per costruire una sedia non servono né una laurea né un diploma, ma capacità artigianali e conoscenza del mestiere, solo che oggi produciamo meno sedie che in passato. È solo un esempio, ma credo esauriente, della situazione. Fra l'altro, scrive Feltri, lo statistico ed economista Giovannini, burocrate d'antico pelo, cioè esponente egregio della casta delle caste, quella che sta sopra anche i politici professionali, per dare una botta definitiva alla fiducia nello Stato sta studiando di eliminare l'indicizzazione delle pensioni superiori a 3.000 euro al mese, mandando così a pallino il patto secondo il quale il lavoratore paga i contributi per tot anni e quando va in quiescenza riscuote un assegno proporzionale a quanto versato. Questo non è neppure un imbroglio, ma un tradimento. I contratti si onorano. Se il governo sgarra, sprofonda nel disonore e presto la ribellione non si scatenerà soltanto sui partiti, ma anche su burocrati e boiardi. Siamo vicini all'esplosione che avverrà al prossimo rincaro dei carburanti. Così Vittorio Feltri. Insomma, non è piaciuta granché, a meno a giudicare dai giornali, questa analisi sulla inoccupabilità degli italiani da parte di Giovannini, che partiva però da statistiche e dati certi, certificati, inoppugnabili, incontrastati, cioè siamo un popolo di ignorantoni. Allora, che dire, prima della pubblicità vi voglio raccontare la disavventura, chiamiamola così, di Ignazio Marino, sindaco di Roma. Lo scivolone di Marino sul nuovo capo dei vigili. Prima pagina di Repubblica, Francesco Merlo racconta che cosa. Aveva scelto come nuovo capo dei vigili di Roma un ufficiale dei carabinieri che ha 3 lauree ed è quindi ideale per un ufficio studi. Ma come ha stabilito l'avvocatura, costringendolo poi a dimettersi, non ha sufficienti titoli di comando. E con questo suo ultimo pasticcio, scrive Merlo, Ignazio Marino ha esaurito il credito che gli era dovuto perché è di sinistra e perché ha sconfitto Alemanno. In un sol colpo il sindaco ha ridicolizzato l'arma dei carabinieri, il corpo dei vigili urbani, il diritto amministrativo, la sapienza giuridica del capo di gabinetto e per finire anche la parola curriculum, sulla quale pedala più che sulla sua stucchevole bicicletta. Venerdì scorso Marino ha presentato alla stampa il colonnello dei carabinieri Oreste Liporace, scelto tra 99 curricula per la straordinaria preparazione scolastica. Convinti di aver trovato l'incrocio tra Norberto Bobbio e il generale dalla Chiesa, al sindaco e i suoi uffici non si sono però accorti che Liporace è colonnello dal gennaio scorso e dunque è dirigente solo da 9 mesi e non da 5 anni come richiesto dal regolamento e specificato dallo stesso Marino nel suo avviso pubblico, nella sua richiesta di curricula, che sono l'ossessione sua e dei grillini. Ed ecco per questo motivo, scrive Merlo, non ha i titoli, è dirigente solo da, è in grado di comando e dirige solo da, in quanto colonnello, da pochi mesi, non da 5 anni, l'hanno presentato in pompa magna. Il sindaco e il colonnello, per Marino l'ultimo flop, sul capo dei vigili urbani, presentato in pompa magna, non ha i titoli e va ritirato e va cambiato. Succede, succede la pubblicità. 24 mattino. Eccoci qua, 7:34 minuti. Allora, ieri è stata fatta la manovrina. La manovrina è stata fatta per rientrare nei deficit, nei parametri europei del rapporto deficit PIL del 3%, visto che si pensava siamo al 3,1. Manovrina da 1,6 miliardi. C'è stato anche un giallo sulle possibili nuove tasse sulle sui carburanti, accise, poi scongiurate. Il Messaggero racconta per esempio questo, che era rispuntato al Mattino e poi è stato tolto, tanto che il Giornale titola trionfalmente: niente tasse, vince il Popolo della Libertà. Però quando non ci sono le tasse ci sono le partite di giro, non è che si può fare altrimenti, non è che si creano i soldi dal nulla. E allora al Sole 24 Ore Marco Mobile e Marco Rogari raccontano, a pagina 3, varata la correzione da 1,6 miliardi, risparmi per 1,1 miliardi su ministeri ed enti locali, 500 milioni dalle dismissioni e quindi vendita di immobili. Giustamente qualcuno mi ha scritto via sms: ma a chi pensano di vendere gli immobili con la crisi che c'è? Bah, non lo so, ci sarà anche qualcuno in grado di comprare immobili del demanio. Comunque tagli semilineari per 550 milioni alle spese rimodulabili dei ministeri, sono esclusi però da questo Ministero di Salute, Istruzione e Ricerca, dunque in questi ministeri nessun taglio. Giro di vite per altri 550 milioni alle uscite degli enti locali, e quindi gli enti locali saranno ulteriormente in difficoltà? Che faranno? Aumenteranno loro le tasse ulteriormente? Perché poi il rischio è quello. Vendita di immobili dello Stato per 500 milioni alla Cassa Depositi e Prestiti, questa è la copertura scelta dal governo alla fine di una lunga giornata in cui si sono rincorse molte voci su nuovi balzelli fiscali con conseguenti tensioni nella maggioranza. Questo è il senso del decretino di 1,6 miliardi, è tutto specificato sul Sole 24 Ore. E tra l'altro il testo prevede anche 190 milioni per fronteggiare l'emergenza immigrazione, altri 20 per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In questo caso la copertura è garantita da interventi sul fondo rimpatri, sul fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dai versamenti INPS al bilancio dello Stato legati alle entrate derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati. Tradotto un po' più brutalmente, Libero per esempio lo fa così: tolgono i soldi, o forse lo fa il Giornale, tolgono i soldi dalle vittime di mafia e le danno agli immigrati. Ecco, è Libero, Maria Giovanna Maglie, i soldi delle vittime di mafia agli immigrati. La nuova beffa costa agli italiani 50 milioni di euro, tutto per un assurdo buonismo autolesionista, così scrive Maria Giovanna Maglie, e il concetto è questo. Soldi, come scrive anche il Sole, servono 190 milioni per fronteggiare l'emergenza immigrazione, alcuni dei quali, 50 per Libero, tolti dalla copertura del fondo solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso. Non è finita, la manovrina da 1,6 miliardi è stata fatta, ora cosa succede? Succede che il nuovo orizzonte è la legge di stabilità, entro il 15 ottobre, dunque settimana prossima, 5 giorni, martedì, credo, 15 ottobre, va approvata la legge di stabilità, servono 12-15 miliardi. Italiani, servono appello, servono 12-15 miliardi. Io come al solito giro con 2 eurini in tasca, li metto a disposizione di lor signori se gradiscono e se a loro aggrada. Di più, scusatemi, ma in questo momento non ce la faccio. I miei 2 eurini però sono a disposizione. In tutto questo c'è anche il tema del dibattito sulle pensioni. Oggi il Corriere della Sera, pagina 3, dopo che il ministro Giovannini ha proposto il blocco delle indicizzazioni delle pensioni sopra i 3.500 euro, se non sbaglio, Domenico Comegna sul Corriere della Sera, pagina 3, fa un po' di calcoli. Quanto costa il congelamento delle pensioni? In 10 anni si perdono 4.000 euro. Tutti i calcoli, se siete pensionati, sull'aggiornamento Istat delle pensioni del 2014 ci sarà per tutti, ma rimane fuori la quota del trattamento che supera 6 volte il trattamento minimo INPS. Questo significa che, data un'inflazione pari all'1,5%, anche chi ha una pensione superiore a 2.973 euro mensili godrà dell'aumento, ancorché limitato a circa 41 euro. Ci sono tutti i calcoli, se volete sapere, in base alla pensione mensile, alla rivalutazione, alla pensione annuale e la rivalutazione prevista nel 2014, sempre che non arrivi il blocco dell'indicizzazione. Chi lo sa, questa è una proposta del ministro Giovannini. Altro dossier che si trova sui giornali, oggi ci sono molte notizie economiche, è il dossier all'Italia. La vicenda all'Italia davvero sembra giunta all'ennesima svolta, a una drammatizzazione, bisogna raccontarla per quello che è. Per esempio Antonella Baccaro sul Corriere della Sera è molto esplicita a dire, a pagina 5, sono ore drammatiche per il destino di Alitalia. Il titolo è: Alitalia, mezzo miliardo o il commissario, procedura fallimentare o intervento pubblico. Moretti nella notte è andato a Palazzo Chigi, quindi probabilmente ci saranno notizie che usciranno anche oggi. Moretti, sapete, è il numero uno di Ferrovie dello Stato, e dunque c'era questa ipotesi ancora in ballo di accorpare in qualche modo Alitalia e Ferrovie dello Stato, treni aerei. Ore drammatiche per il destino di Alitalia, attesa stamattina dall'ENAC, cioè l'ente aviazione civile, la verifica della continuità aziendale, cioè la licenza di Alitalia rischia di diventare provvisoria e il CDA di Alitalia potrebbe slittare a domani. Il rischio commissariamento è anche il titolo a pagina 4 della Stampa. Ci vogliono 500 milioni per il salvataggio della compagnia, circa 150 dallo Stato e 200 milioni dalle banche. Io voglio su questo salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore, ovviamente la notizia anche sul Sole. Mauro, buongiorno. C'è il rischio che insomma ci ritroviamo, ma questi dossier che riprendono, si riaprono, rispuntano, richiudono, all'Italia è lo stesso discorso di qualche anno fa, quando ci furono, no? Siamo ciclici in Italia, che dobbiamo fare? Tu poi guardi, oggi abbiamo un paio di commenti abbastanza articolati su Alitalia, anzi forse addirittura 3, e sostanzialmente c'è anche qualche presa di posizione del tipo basta, vendiamola, cediamola. Roberto Perotti, per esempio, docente da Bocconi, scrive ora basta, vendiamola. Dicono un titolo che non lascia molto spazio all'immaginazione, come dire. È abbastanza esplicito. Doverci far carico ulteriormente di un impegno finanziario che poi non sappiamo quanto potrà essere ripagato dai risultati operativi della compagnia. Perché poi quando dicono mettono i soldi le banche, poi sì, magari le mettono le banche, sì, ma poi che succede dal giorno dopo per i cittadini? Ecco, il timore è quello, che le mettono le banche, però c'è un buco e poi paga pantalone, no? Sai Alessandro, qui c'è un problema a brevissimo termine, no? Si parla di una minaccia di non poter pagare neanche il carburante per gli aerei, insomma, a brevissimo termine, cioè a giorni, e quindi qui si tratterebbe davvero di mettere una pezza, come si dice con un termine poco finanziario. Certo. Però a lungo termine quello che non riusciamo a vedere, molti dei commentatori non riescono a vedere, una prospettiva della strategia. È chiaro. Che altro c'è di interessante sul Sole 24 Ore oggi da leggere? Ma guarda, una buona notizia è l'andamento del BTP collocato ieri, BTP a 7 anni, era una scadenza per noi nuova, è andato bene, rendimento diciamo soddisfacente, richiesta molto alta, 11 miliardi mi sono stati chiesti, quindi c'è interesse sempre, si mantiene interesse, questa è sempre una buona notizia, vuol dire che insomma nonostante tutto quello che facciamo per non fare buona figura, ci sono ancora degli investitori che invece credono in noi, credono nella nostra capacità. Ti segnalo una cosa molto carina su Imprese e Territori, sta nel nostro terzo dorso, come si dice in gergo, che è questa irruzione della Guardia di Finanza tedesca a Colonia, che ha praticamente portato, insomma, sequestrato e mostrato come la fiera di questa enorme fiera dell'agroalimentare fosse invasa letteralmente da prodotti finto italiani. No! La sfacciataggine dei falsari, che peraltro, tra cui peraltro si annoverano anche aziende tedesche, olandesi, inglesi, quindi insomma gente che dovrebbe sapere che non si può impunemente copiare un prodotto DOP. L'Europa un po' distratta magari. Ecco, la facciataggine è tale per cui mettono un nome Italian Sounding, cioè che sembri un pochino italiano, poi di italiano non c'è assolutamente niente, ovviamente. Lasagne bolognais. Siamo un po' sul bolognais, poi ci sono la mozzarella, cheese e altre piacevolezze, insomma. È una storia, per così dire, edificante, o poco edificante, naturalmente, perché ci è finito. Bene che, come dire, ci sia stato un intervento, perché come noi diciamo sempre che ci vuole più tutela, questa volta i finanzieri tedeschi sono stati tempestivi e hanno portato alla luce questo fenomeno. Beh, insomma. Tu pensa però davvero la sfacciataggine di questi signori che si sono presentati a una fiera, dove peraltro c'erano 1000 aziende italiane, delle 6.000 e passa totali, con le bolognais, presentando prodotti Italian Sounding, con la bolognais, convinti di farla in qualche modo franca. Con la mozzarella, va bene Mauro, intanto ti ringrazio, ci ritroviamo domani mattina puntuale a quest'ora. Noi dopo le informazioni sul traffico parleremo di politica, la politica litiga su amnistia e indulto, che sarà anche il tema di discussione che approfondiremo alle 8.15, e su Lampedusa, il reato di clandestinità e cose affini. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Sì, sì, certo, eccoci qua. Le 7:48 minuti. Allora, per il Fatto Quotidiano la questione dell'amnistia e indulto è molto semplice. Ci raccontano balle: con l'indulto Berlusconi è libero. È falso che il condono penale di 3 anni ordinato da Napolitano non salverà il Caimano. Beh, addirittura ordinato. Questa è la posizione del Fatto Quotidiano. C'è chi lo approccia questo tema parlando del piano antidegrado, fuori dalle celle restando in carcere. Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, un'intera pagina, pagina 15, racconta il programma di interventi per creare 12.000 posti in più entro il 2016, calcoli che si possono fare, ma qualche cifra realistica si può immaginare. Se l'Italia non comincerà a cambiare la situazione di vivibilità delle proprie prigioni, circa 2.800 ricorsi pendenti alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo saranno esaminati con buone possibilità di essere accolti, e quindi in qualche modo verremo anche condannati per appunto la invivibilità delle carceri. Dunque ci vuole un piano per rivederli. Chi come il Giornale la mette con Gabriele Villa, pagina 6, sulle prigioni costruite mai utilizzate, lo scandalo dei 40 carceri. Chi come il Movimento 5 Stelle oggi andrà al Colle, ma non riceverà Napolitano, ma porterà il piano carceri, cioè l'idea di fondo è non costruire nuove carceri ma ristrutturarle per conquistare 22.000 posti in più. C'è chi come Massimo Fini sul Fatto Quotidiano fa un jacuzzi durissimo a pagina 22. Amnistia, occhio all'ira dei miti. Massimo Fini scrive: allora era tutta una farsa, il lavoro del PM De Pasquale, del Tribunale di Milano, della Corte d'Appello, della Sezione Feriale della Cassazione, è stato inutile. Allora le sentenze pronunciate in nome e col denaro del popolo italiano non valgono nulla. Allora la condanna a 7 anni per concussione e prostituzione minorile cadrà di fatto nel nulla. Allora la manfrina del PD sulla decadenza da senatore di Berlusconi era solo davvero una manfrina. Insomma, dice Massimo Fini, di tutto questo si gioverà Silvio Berlusconi. A un certo punto Massimo Fini, che con la sua prosa molto asciutta e diretta è anche più duro: il PDL è sempre stato contrario all'amnistia, ora gli è favorevole perché può salvare Berlusconi. Che facce toste, che facce da culo, basta con questi mascalzoni di destra e di sinistra, ci prendono in giro da 20 anni, non c'è più possibilità di mediazione alcuna. Ma attenzione, se dovesse avvenire sarà una vera rivolta, perché come dice la Bibbia, terribile è l'ira del mansueto. Insomma, Massimo Fini chiama o comunque evoca una possibile rivolta, così come Vittorio Feltri oggi dice succederà una rivolta alla prossima aumento di carburanti. Sembra un po' che siamo il popolo degli italiani dove si minaccia poi non si fa niente, fortunatamente insomma una rivolta, però viene evocata così, anche un po' a cuor leggero. Intanto il tema Lampedusa è un altro tema che rimane sullo sfondo, molto molto concreto. Ci sono stati i fischi, avete sentito a Letta e a Barroso le autorità, Letta si è inginocchiato davanti alle bare c'è dall'altra parte il racconto terribile, molto drammatico, lo trovate per esempio con Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, pagina 9, dei sub che devono fare un lavoro davvero terribile, quello di andare sotto e recuperare i cadaveri uno a uno. E si trovano, per esempio, scrive Buccini, una mamma che stringe il figlioletto di 8-9 anni sul ponte di Prua. Sono andati giù insieme nel gorgo della barca, ci sono i sub, i sommozzatori che fanno questo lavoro molto pietoso e terribile, e poi raccontano in lacrime, con le maschere piene di lacrime, dice: scendiamo giù e facciamo questo compito davvero improbo. Il tema è anche politico, con il primo via al reato di clandestinità, il primo colpo alla Bossi Fini in Senato, ha approvato un emendamento del Movimento 5 Stelle, ma insomma queste sono le varie tematiche che trovate sui giornali. Noi ci occuperemo invece di amnistia e indulto alle 8:15. E allora che dire, sono al momento conclusivo, quello della carta costa, vale a dire l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Dovrei dare un doppio premio, lo do però perché l'articolo è su due giornali, lo do al giorno. Marilyn Monroe, l'imperfezione di una diva, si fece ritoccare il mento e il naso. Marilyn Monroe, un'intera pagina di Giampaolo Pioli sul Giorno, a pagina 18. L'icona sexy, cedette alla chirurgia estetica. E come l'hanno scoperto? Le cartelle cliniche, pofferbacco, sono state rivendute anche all'asta, e le cartelle cliniche rivelano che Marilyn Monroe si era fatta fare un ritocchino al suo naso già perfettino, e poi forse anche un ritocchino al mento, con un'introduzione e un impianto di cartilagine che però dopo 8 anni aveva dato segni di cedimento, e lei aveva preteso dunque di essere corretta, perché ovviamente l'inizio della chirurgia plastica erano gli albori, immagino. Ma soprattutto viene da dire: chi se ne fotte di una notizia del genere? Marilyn Monroe, ma è morta, ma lasciatela in pace. Ah, è morta? È perché c'è una legge. È morta Marilyn Monroe? O sta su un'isola con Elvis Presley? Con Obama? Osama, Bin Laden, tutti lì. Chi lo sa? Poi chi c'era su quest'isola? Boh, non lo so. Jim Morrison, Jim Morrison, certo, come no. E poi? Chi? James Dean, certo, come no. James Dean, Marilyn Monroe ritoccata al nasino e al mentino, e poi Osama Bin Laden, e poi tutti gli altri. E Elvis, l'ho già detto, Elvis, the pelvis. La carta costa, cari amici del giorno, ricordatevelo, il giornale radio.